Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata, bentornati a Magazine 24, il nostro appuntamento con i settimanali, quello che c'è da leggere e le notizie anche un po' curiose, un po' più inattese che possiamo trovare nella stampa italiana e straniera, naturalmente periodica. Vorrei partire da una considerazione che sembra un po' una frase fatta, di quelle del tipo non ci sono più le mezze stagioni o cose del genere, cioè avete mai provato a cercare un idraulico, un falegname o qualsiasi altro lavoro di questi, diciamo, artigianali, ma con un forte sapere specifico. Ecco, perché ve lo chiedo? Perché naturalmente si dice che sia molto difficile trovarli. Ohimè, è proprio vero, ci sono delle professioni introvabili, ne parla questa settimana Famiglia Cristiana, utilizzando una ricerca di Confartigianato. Confartigianato ha fatto una classifica delle professioni introvabili, cioè professioni per le quali ci sarebbe del lavoro, ma non ci sono le persone formate per svolgerlo. Allora, i primi posti per il numero più elevato di professionalità richieste, leggo da questa inchiesta di Eugenio Arcidiacono, richieste non disponibili appunto, vi sono i falegnami e gli operatori specializzati nella lavorazione del legno, quindi l'artigiano più difficile da trovare è il falegname. Manca, dice Confartigianato, il 51,7% del fabbisogno totale, cioè ci sarebbe un bisogno doppio rispetto a quelli che sanno fare appunto i falegnami, gli operatori specializzati nel legno. Poi mancano parrucchieri ed estetisti, sarebbero 3.200 più o meno i posti a disposizione, però mancano anche elettricisti, le aziende ne cercano quasi 10.000, 9.850 e non ne trovano 2.840, meccanici e autoriparatori sono pronti ad assumere 3.900 persone, ma 1.640 sono introvabili e non va meglio per gli idraulici, una delle professioni, appunto come si diceva all'inizio, tra quelle considerate più introvabili, le imprese dovranno rinunciare ad assumerne 1.560 su un fabbisogno totale di 6.910. Ci sarebbero buone opportunità di lavoro anche nel settore alimentare, sono scoperti il 38,8% dei posti nei panifici e nei pastifici, e così anche succede nelle pasticcerie e nelle gelaterie, dove c'è un forte fabbisogno di manodopera che rimane scoperto per il 28,2%. L'inchiesta di Famiglia Cristiana poi si completa con un'intervista al presidente di Confartigianato Giorgio Guerrini, il quale appunto segnala che complessivamente si cercano oltre 90.000 dipendenti, ne mancano più del 30%, e qui Guerrini dice meno male che ci sono gli stranieri che in qualche modo vanno a colmare alcuni saperi, alcuni saper fare, verrebbe da dire, che gli italiani appunto sembrano meno disponibili a coprire. Spiega Guerrini: purtroppo da un lato scontiamo una cultura che da anni tende a svilire il lavoro manuale rispetto a quello intellettuale, e dall'altro una formazione scolastica che offre sulla carta tantissime possibilità che però non sono legate alle reali necessità del mondo del lavoro e del mercato del lavoro. Questa è l'inchiesta di Famiglia Cristiana sulle professioni introvabili, appunto non molto distante da quello che poi si usa dire, ma con anche qualche indicazione che può rivelarsi preziosa in questo periodo, perché infatti c'è anche un problema di poco impiego, specialmente per certe fasce di età. Su un novello osservatorio di questa settimana c'è un'interessante classifica sul tasso di attività di impiego dei seniors, come vengono elegantemente definiti, cioè persone che sono tra i 55 e i 65 anni. L'inchiesta che viene presentata da Novello Observateur si riferisce a un lavoro fatto sui 27 paesi dell'Unione Europea, e l'osservatorio gli dedica spazio perché la Francia è al penultimo posto nel tasso di impiego delle persone tra i 55 e i 65 anni. In questa classifica al primo posto sta la Svezia, con un tasso di impiego di questa fascia di età del 73%, poi viene il Giappone, gli Stati Uniti, il Regno Unito, la Danimarca, la Germania, la Spagna, e solo con il 40% di tasso di impiego di questa fascia d'età la Francia. Indovinate chi sta all'ultimo posto di questa classifica? L'Italia. 35,5%, il tasso di impiego appunto appunto di queste persone tra i 55 e i 65 anni è molto basso, e non c'è da pensare peraltro che con questa fase di difficoltà, di crisi, non ci sia magari anche un condizionamento dato proprio dal fatto che queste persone vengono poi allontanate dal circuito produttivo e faticano chiaramente a rientrarci. Questo segnala Nouvel Observatoire in una classifica appunto europea, con anche la presenza, come abbiamo sentito, del Giappone. Facciamo un passo indietro, torniamo a Famiglia Cristiana, perché a proposito di lavori c'è una bella intervista con un personaggio davvero interessante, che è sorella Catarina Paichel, che fa di mestiere la ricercatrice al CERN, però è anche una suora. Ora, questo connubio tra scienza e fede in qualche modo non poteva non incuriosire i colleghi di Famiglia Cristiana, che infatti sono andati a intervistare sorella Catarina proprio a Oslo, perché da Oslo, e con naturalmente l'ausilio del web e di tutte le tecnologie possibili, sorella Catarina si occupa proprio del grande esperimento che si sta cercando di fare a Ginevra, nell'acceleratore del CERN, cioè il Centro Europeo per la Ricerca Nucleare, appunto cercando di trovare questa mitica particella Higgs, cioè la particella, spiega la stessa sorella Catarina, che tutti cerchiamo e che ci permetterà di capire da dove trae origine la materia, quindi da dove veniamo noi. Questa è un'intervista molto interessante, perché appunto sorella Catarina fa giustizia con pochissime parole di eventuali dissidi che possono esserci tra l'atteggiamento scientifico e la persona di fede, appunto essendo suora, ma contemporaneamente anche una scienziata, una fisica, non ha nessun problema a mantenere le due entità, le due cose. E dice, chiede l'intervistatore, per una suora lavorare in un posto che è tanto costoso e non ha scopo pratico, non è un po' una contraddizione, un po' come se lei si permettesse un grande lusso? La risposta è molto pronta, dice: intanto al CERN si sono registrate fantastiche ricadute, è stato inventato il web e senza neppure brevettarlo, a dimostrare la generosità cui può portare la grande scienza. Questo è un posto ricco, ma dove c'è tanta ricchezza c'è spesso una grande miseria spirituale, a volte terribile. E non solo, ci sono anche tanti cristiani che poi non capiscono cos'è il CERN, non sanno nulla di fisica. Io invece penso che la scienza delle particelle elementari ci aprirà orizzonti che ci parleranno sempre di più dell'infinita grandezza di Dio. E questa è la conclusione molto pratica, molto scientifica, verrebbe da dire, di sorella Catarina Paichel, che fa la ricercatrice al CERN. Abbiamo un minuto prima di fermarci per le informazioni sul traffico. Allora, visto che stavamo parlando di questioni religiose in qualche modo, cioè del mestiere svolto da sorella Catarina Paichel, vi segnalo l'iniziativa del Sole 24 Ore. Da ieri trovate in edicola La Parola Dipinta. Che cos'è La Parola Dipinta? Sono quattro volumi che contengono le spiegazioni e le riproduzioni dei dipinti della Cappella Sistina. In questi quattro volumi vengono descritti tutti gli affreschi che si trovano nella Cappella Sistina, con le spiegazioni ovviamente dei critici, ma anche le riproduzioni che aiutano un po' tutti noi ad avvicinarci a questo capolavoro. Lo trovate in edicola con il Sole 24 Ore, ripeto, sono quattro volumi, il primo è uscito ieri, venerdì, il prossimo uscirà venerdì prossimo e così via, per fino a completare il piano dell'opera. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24, abbiamo parlato di lavoro, volevo parlare di una ricorrenza, una di quelle ricorrenze che sono molto importanti ma magari rischiano di cadere un pochino nello scontato. Si tratta di quello che andremo a celebrare mercoledì prossimo, se non faccio confusione con le date, cioè il 25 di novembre. Il 25 di novembre è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Ovviamente, naturalmente, i settimanali di questa, appunto, usciti in questi giorni se ne occupano diffusamente, ci sono più servizi dedicati proprio a questo problema e alle cose che insomma si devono fare, si possono fare per ridurre, per contenere, possibilmente per eliminare questa piaga. Ho scelto tra i vari servizi che venivano proposti quello che potete trovare su Donna Moderna, perché ovviamente essendo un settimanale femminile è più attento di altri a questa tematica. Donna Moderna presenta in realtà tutta una serie di iniziative, ci sono delle interviste a donne famose, donne ministro, parlamentari, ma anche conduttrici televisive che segnalano appunto le cose da fare, le cose che si dovrebbero fare per arginare questo fenomeno. E poi c'è una serie, ci sono delle tavole rotonde, ci sono degli incontri con degli specialisti, degli esperti, psichiatri, responsabili di pubblica sicurezza e così via, che sul sito di Donna Moderna e sul giornale che trovate in edicola parlano di violenza contro le donne. Vi segnalo soltanto, l'inchiesta ovviamente è abbastanza lunga e molto dettagliata, ma vi segnalo soltanto un paio di cose che vengono riportate dalla tavola rotonda che ha visto riunite le esperte, il lato femminile a parlare appunto di violenza contro le donne. Dice: solo un'italiana su 10 denuncia una violenza o un maltrattamento. Il motivo? Perché nel 65% dei casi ritiene che questo non sia un reato grave. La motivazione è apparentemente incredibile, dice Francesca Zajcik, che è docente di sociologia urbana alla Bicocca, ma bisogna entrare, spiega la sociologa, nella psiche di chi cerca un alibi ed è gravata dal senso di colpa, di chi vorrebbe non ammettere di avere fallito il rapporto di coppia. E infatti un'altra ragione riguarda la paura che lui venga arrestato. Non lo denuncio perché lo amo. Quindi donne lese nell'autostima, continuamente mortificate anche davanti ai figli. E ovviamente quello che viene raccomandato anche dalle pagine settimanali è: non è mai colpa della donna, naturalmente, se il suo uomo è violento, non è mai una colpa subire una violenza, quindi è invece un dovere reagire, denunciare chi usa questi metodi contro le donne. Allora, visto che siamo su temi un po' come dire, che sfiorano o che entrano direttamente nelle questioni del codice penale dei tribunali, parliamo di una cosa di cui si sta parlando parecchio anche sui settimanali: la lunghezza dei processi. Come sapete, c'è in discussione questo progetto di riforma dei processi per un processo breve, ma dal punto di vista penale. Luca Ricolfi, nella sua rubrica Fatti e credenze su Panorama, in realtà fa una disamina un po' più ampia, cioè ci segnala che il problema non è solo e tanto nella giustizia penale quanto nella giustizia civile, che da noi davvero, per i tempi che ha, è una giustizia negata. Non è la prima volta che segnaliamo anche qui a Magazine 24 i tempi biblici della giustizia civile in Italia. Scrive Ricolfi: in campo civile abbiamo subito l'onta di essere considerati dalla Banca Mondiale al 156esimo posto su 183 nella graduatoria per capacità di far rispettare i contratti. Siamo finiti dietro a paesi come il Sudan, Ruanda, Nicaragua, Albania e Uganda. Naturalmente, con tutto il rispetto per questi paesi, la nostra economia, la nostra convivenza economica e civile forse meriterebbe un'attenzione maggiore perché è maggiormente sviluppata. Nella medesima graduatoria risultiamo addirittura ultimi fra i paesi considerati dall'OCSE, cioè i 30 maggiori paesi industrializzati. In nessun paese OCSE è più difficile far valere le proprie ragioni davanti alla giustizia. Ricolfi poi presenta alcuni dati, questa volta riferiti al processo penale, che fanno emergere una grossa difformità tra le aree del paese. A nord un processo penale, segnala Ricolfi, dura mediamente 221 giorni, a sud 555. A nord un processo civile dura 323 giorni, a sud 654. Quindi c'è una grossa distanza tra le aree del paese. Se può essere spiegabile in qualche modo dal punto di vista del penale, con alcune inchieste che magari possono essere più complesse da svolgere contro la criminalità organizzata, ma invece non è assolutamente comprensibile una difformità simile nei tempi tra nord e sud. Quindi è evidente che la nostra macchina della giustizia ha qualcosa che non funziona. Torniamo a parlare di lavoro, di attività in proprio in questo caso, perché sull'Espresso di questa settimana si scrive: 2010, fuga dal negozio. Un'inchiesta di Emiliano Fittipaldi che ci segnala che aumentano i venditori ambulanti, aumentano gli acquisti diretti dai contadini e dagli allevatori, le boutique e i market di vario tipo vanno su internet, sulla rete, e insomma tra la crisi e la coscienza ambientale si sta rivoluzionando il commercio. Però quello che succede è che stanno diminuendo proprio i negozi, i classici negozi, quelli magari a conduzione familiare. Una tabella che viene appunto riportata nell'inchiesta dell'Espresso, spiega che tra il 2004 e il 2008 c'è stata una decisa riduzione, un saldo negativo per attività come le salumerie, ce ne sono 4.445 in meno, le macellerie 3.706 in meno o i negozi elettrodomestici che sono diminuiti di poco meno di 3.000 unità. Segnano in negativo anche i giornalai, ferramenta, le profumerie, i panifici e così via. C'è una, appunto, fuga dal negozio, come spiega Fittipaldi. E leggiamo nell'articolo: deserto in centro, a un certo punto dice: gli alimentari tradizionali si leccano le ferite, la crisi non ha fatto prigionieri, panettieri e macellai si stanno estinguendo. Segue poi la descrizione di una serie di zone di Milano e di Roma e di Napoli in cui, appunto, questo tipo di attività si è ridotta. Un'altra tabella, sempre in queste pagine dell'Espresso, segnala il numero di negozi alimentari ogni 10.000 abitanti, con il confronto tra il 2002 e il 2008. Le grandi città considerate Milano, Roma, Napoli, Perugia, Foggia e Catania hanno tutte segno negativo. Il numero di negozi alimentari ogni 10.000 abitanti, tanto per darvi un dato, è passato da 12,9, quasi 13 a Milano nel 2002, attualmente è a 8,3. E chiudiamo con qualcosa di decisamente più leggero, un amante di nome Facebook, così il titolo di una rubrica su Donna Moderna questa settimana. Di cosa si parla? Si parla della potenzialità dal tradimento che si sviluppa con questi social network, di cui peraltro parliamo molto e leggiamo molto in questa rubrica. Perché? Perché la relazione online, si legge, è più intrigante, meno impegnativa e quindi finisce per coinvolgere le donne, specialmente perché, appunto, di questo aspetto si occupa il settimanale, e a volte può avere però dei riflessi tutt'altro che virtuali nella vita di coppia, quella reale. Naturalmente, con questa avvertenza a come dire, considerare con molta attenzione gli approcci online, abbiamo più o meno esaurito il tempo a nostra disposizione. Io ringrazio Carmelo Lauricella, che ci ha assistito in regia, Vittoria Mussini e Manuela Sicuro, che mi hanno aiutato a preparare questo programma. Vi do appuntamento a sabato prossimo.